Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Do una notizia. Da oggi potete trovare sulla rete un sito che si chiama Forza Dudù. Ma le cose che non sapevo che ci fossero in Italia 7 milioni di cani, non sapevo che ci fossero in Italia 12 milioni di gatti, e soprattutto non sapevo che il 36% delle persone i cani e i gatti li fanno dormire sul letto, il 16% li fa dormire sotto le coperte, il 40% delle signore afferma che dopo un alterco coniugale trova serenità nel confortarsi con il proprio cane. Non voglio entrare in merito al portato politico delle annunci che ha fatto Silvio Berlusconi al palco dell'Auditorium Conciliazione a Roma. Oggi la scena politica è occupata in maniera preponderante da ben altre cose. Però voglio riaprire una riflessione che a me è molto cara. In sintesi, Berlusconi avrà usato con acume, come sempre fa, quelli che sono alcuni punti emotivi che individua molto forti. Ha trasformato in elemento di forza quello che era un elemento di derisione, il cagnolino Dudù, il cagnolino della Pascale, è diventato una sorta di oggetto simbolico del rincoglionimento. Quando un uomo di una certa età si fa vedere sempre con un cagnolino peluffoso e coccoloso in braccio, dà qualche segno comunque di cedevolezza. Questo è nel luogo comune, naturalmente. Ma al di là di questo è interessante quello che dice. Dice che in realtà si è accorto che esiste un numero esasperato di cani e di gatti, che gli italiani hanno un rapporto ormai viscerale, affettivo, quasi lussurioso con i loro animali, tanto da tenerseli sotto le coperte. Questa pensate che sia una grande scoperta? No, noi ci eravamo già arrivati da vario tempo e su questo ci eravamo interrogati. E come mai oggi c'è questa sorta di deriva di affettività esasperata nei confronti degli animali, che va oltre ogni possibile, immaginabile, condivisibile affetto, rispetto, considerazione del regno animale? Come mai l'emotività che una volta era collocata su elementi forti come il bambino, la famiglia, la cosa dolce, tenera e carezzevole, è così fortemente virata verso l'animale? Guardate, non è una cosa legata soltanto al vecchio, antico e nostalgico mondo analogico. Se andate nei social media, non sa bene chi li frequenta, una delle maniere più potenti per affermare la propria esistenza, per imporre il proprio pensiero, per cercare condivisione, è mettere foto di cucciolotti o teneri o macilenti, oppure ancora peggio, tanto che c'è stato fatto uno studio molto importante di una società psichiatrica che dice che dietro si nascondono addirittura delle patologie abbastanza gravi, o addirittura ostentare foto di animali uccisi, scoiattati, torturati. Ieri girava per l'ennesima volta la foto di un mercatino estremo orientale dove vengono esposti i cani come da noi sono esposti i conigli o le galline. Cambia il costume e cambia la considerazione dell'animale da compagnia, e chiaramente in altre latitudini cani e gatti se li mangiano. È una cosa che a noi fa orrore, ma questo avviene. Ma mettere e sottolineare fortemente questo aspetto è qualcosa che forse vale la pena di approfondire di più, tanto che se n'è accorto un comunicatore, un politico come Berlusconi. Cosa pensate che stia accadendo fra il mondo animale e il mondo degli esseri umani? Qual è il luogo esatto che hanno gli animali nella vostra vita? 800240024. I cani iniziamo, il più anziano si chiama Cico, poi c'è una trovatella che si chiama Cica, poi c'è uno che si chiama Gas Gas, poi c'è un altro che si chiama Kiss. Mi è stato portato un canino in casa da mio figlio, che poi è andato via, poi mia figlia ne ha preso un altro quando è andata via per lavoro, quindi sia il cane che la gatta ora sono diventate persone a me, con me di fiducia. Penso che gli animali siano meglio dell'uomo. Ho avuto un cagnolino per circa 13 anni ed è morto di leishmaniosi, praticamente 11 anni di punture ogni 3 mesi, 60 punture in 30 giorni. Mattina e sera, poi a dieta. Comunque il cane è stato benissimo. Sono uno che ama gli animali, ama i cani. Diciamo che la deriva è abbastanza recente. È iniziato con Mario Monti, a cui è stato messo in braccio un cagnolino nel salotto di Dara Bignardi. Gran parte della sua campagna è stata appoggiata sul fatto che lui teneva questo cagnolino, se lo portava a casa, se lo coccolava, salvo poi rinnegare fortemente questo gesto come se gli fosse stato imposto qualche settimana fa. E seguire una rota altri politici, improvvisamente tutti si fecero vedere con in braccio il cagnolino. Guardate che una volta il politico in campagna elettorale, quando voleva colpire il suo elettorato, voleva far vedere che lui era uno come gli altri, prendeva in braccio il bambino. C'era sempre una madre, la maggior parte delle volte prezzolata, che esponeva l'infante verso le braccia dello staff del politico, e lui lo prendeva, lo baciava, lo accarezzava, gli dava una carezza, gli imponeva le mani. Ma questo lo facevano tutti, l'hanno fatto i grandi dittatori, l'hanno fatto i capopopolo, l'hanno fatto i piccoli capobastone di paese, lo fanno tutti. L'abbraccio alla creatura era la maniera più evidente per farsi vedere che si faceva parte del grande cuore della gente. E perché oggi è cambiato? Perché non c'è più la creatura, ma c'è il cagnolino, c'è il gattino. 800240024. Dici mamma. Mamma. Vieni, dai la zampa. Mamma. Mamma. Ma ti faccio anche una papà buona oggi. Mamma. Facciamo la pasta asciutta con le polpettine. Questo è un altro esempio. Se andate su YouTube, che oggi è la presa diretta con la realtà quotidiana di tante famiglie italiane, non appartiene più a una classe eletta di avanguardie del pensiero. Oggi chiunque ha uno smartphone in mano, chiunque vuole rendere epici i propri momenti quotidiani, lo fa, filma, poi mette su YouTube, condivide, rende pubblico il suo privato, perché il suo privato possa passare all'eternità della storia digitale, almeno questo nell'impressione. Beh, cosa avviene? Avviene che tante persone, sempre più persone, dopo la prima fase in cui si facevano vedere i bambini, la prima parola, la prima camminatina, la prima cacchina, il primo giochino, e adesso c'è il parlare con i cani, gli animali sono i veri protagonisti di tutte le esternazioni e delle pantomime familiari in rete. Cosa sta accadendo? 800240024. Allora, mi chiamo Dennis, ho sconfitto la solitudine adottando un cane. Da quando è morta la mia cagnetta, che me l'hanno avvelenata 9 anni, che ieri ha fatto 2 mesi, io non dormo più la notte, piango con mio marito, e tutte le notti mi corro alle 2 di notte lì seduta vicino la fotografia della mia cagnetta che la piango. Questa è una delle sindromi più frequenti. La gattara che teme tutta la vita che qualcuno possa sopprimere, torturare, ammazzare i propri gatti, quando poi perde una delle sue creature, ne piange il lutto e ne sente il vuoto come se fosse un essere umano. Tutte le notti con mio marito stiamo svegli e piangiamo la nostra gattina e guardiamo la foto. Mi scrive un ascoltatore, mio vecchio zio mi diceva da sempre, quando un uomo arriva alla fine, alla fase del cane della donna, lo porta a passeggio per rispettare i bisogni e comincia a vezzeggiare e coccolare il cane. Un uomo è finito. Non so bene cosa significhi. Matteo, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Complimenti per la trasmissione, ma è brutto dirlo, ma comunque glieli faccio. Considero gli animali come devono essere considerati dalla natura, nel senso che vedo anche coppie di miei coetanei, di quarantenni, sposati, che prendono il classico cagnolino in sostituzione anche del figlio e lo coccolano come se lo portano a letto. È veramente, cioè, a me fa tristezza sinceramente, non so poi se sono troppo fiscale o... Quindi lei è d'accordo che esiste una considerazione, è cambiato velocemente negli ultimi anni la considerazione dell'animale da compagnia. Io ho memoria di vita fanciullesca adolescenziale in campagna, in cui gli animali vivevano accanto agli uomini, ma gli uomini erano uomini, gli animali erano gli animali. Oggi sembra quasi che io stia bestemmiando, qualcuno fra un po' comincerà a scrivermi non ti permettere, a minacciarmi solo perché dico che gli animali sono animali e gli esseri umani, sono ranghi distinti, ma soprattutto questa sorta di affettività esasperata, quasi morbosa. Gli uomini hanno fortemente ridimensionato la loro esternazione affettiva nei confronti di altri uomini, ci si vergogna dei sentimenti, ci si vergogna dei legami stabili, ma in realtà verso gli animali no, uno potrebbe stringere patti d'amore a vita. C'è anche da dire che, come mi suggerisce Fabrizio Intonti, andare in giro con un cucciolo è come una volta era andare in giro facendo il padre sperduto con il bambinetto in mano, si era l'oggetto del desiderio e della tenerezza di tutte le donne. Angela. Allora, eccomi qua. Io volevo dire che ho passato metà della mia non brevissima vita, ma neanche lunghissima, ho 62 anni, con i gatti, che ovviamente raccolgo per strada, niente gatti di lusso. Quindi è una gattara lei, il termine. Sono una gattara, esattamente, e me ne vanto, ne vado orgogliosa. E volevo soprattutto dire che da questi gatti amatissimi, ovviamente, pianto per mesi quando gli altri sono morti. Io ho imparato tanto. Ad esempio? Ho imparato per esempio il contatto con se stessi, ho imparato come ci si contatta, come si può contattare l'anima altrui più di quanto già sapessi farlo. Annusandosi sotto la coda, come fanno i gatti? Come funziona? No, per capire. Perché... Sono sterilizzati purtroppo, perché in casa non... Quindi scusi, ma tutto questo amore poi impedisce a loro di fare l'unica cosa per cui sono nati? Lo so, me lo sono chiesto tante volte io prima di farlo, però o la vita o il resto. Certo, un amore condizionato. Pensi se una donna dice se ti amo tanto però ti taglio le palle. Io avrei qualche dubbio a frequentarlo. Io veramente lo farei con qualcun altro, ma purtroppo l'ho dovuto fare ai gatti per salvargli la vita. Sì, ma sa, lasci scegliere al gatto, forse gli preferisce vivere un po' meno, ma vivere più intensamente. No, se mai posta questo. No, non lo so, mi pongo io, non essendo gattaro, mi pongo questo problema. Se io fossi un gattino direi, cara mamma gattara, ti prego, fammi vivere un po' meno, però quei pochi anni che vivo, fammi divertire. Tante volte, no. Però alla fine a lei conveniva averli. No, a me conveniva, perché non è che è un riempitivo per me avere questi gatti, per niente. Sono una donna molto impegnata su vari piani, culturale, lavorativo, eccetera. È che ho preferito salvargli la vita. Ma io non ho tutta questa sicurezza che nella cosmologia felina una lunga vita sia preferibile a una vita intensa, però con tanti miagoli per gatti in amore. Ci fermiamo un istante. Clida Shampoo è uno shampoo concentrato adatto alla detergenza di tutti i tipi di pelo del tuo cane. Rispetta il pH naturale della pelle del cane agendo delicatamente. Disponibile in tanica da 5-10 litri. Prezzo euro 40. Cappottino Leo Dance for Pets. Per il vostro cane, cappottino in paille con gonnellina, ecopelliccia e cuore contornato da pietre Swarovski. Euro 90. Felpa Velour Heart. Tenera felpa con bordi e maniche in colore a contrasto e sulla schiena, grande cuore colorato con fiocchetto. Prezzo euro 35. Io sono convinto che, nonostante la crisi, molti ci faranno un pensierino in questi deliziosi oggettini per i nostri cari amici a quattro zampe. Mi scrive un ascoltatore via SMS. Ultimamente si va al supermercato e si vedono i cesti per donare il mangiare per gli animali pieni di cose e quelli per i cristiani vuoti. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire perché io amo gli animali, ho un gatto, se potessi avrei un cane, se avessi la possibilità di lasciarlo a qualcuno quando sono assente. Però mi sembra che sia diventato una mania soprattutto nelle mani di italiani maleducati come normalmente, come siamo diventati adesso. Per cui non trovo giusto che questi animali disturbino poi quello che è la quiete, quella che è la proprietà comune, eccetera. Quindi cioè, è per quelle belle litigate da condominio contro il vicino. Belle litigate, possibilmente se non si fanno le litigate meglio, però io abito a lato di un parco dove questi animali fanno quello che vogliono. Corrono, vanno addosso ai bambini, defecano, nessuno raccoglie gli escrementi, ho dovuto chiamare il vigile due o tre volte. Guai a toccare un cane, io dico. Guai a toccare un cane, il condominio non si può più, Quindi no, lei conferma quello che sto dicendo io, esiste una sorta di sacralizzazione, intangibilità del concetto dell'animale e della compagnia. Ma guardate che non è che Berlusconi le cose le faccia a caso, se sta puntando a una fetta di possibile consenso, aprendo il cuore a canari e gattare, c'è un razionale, avrà studiato il problema, sa che esattamente sono quei luoghi intoccabili dell'emotività. Guai a dire, guardate, io me un gatto mi fa venire l'allergia subito, sono allergico al pelo dei gatti. Beh, questo viene considerato quasi una colpa. Ah, essere insensibile, come ti permetti? Sono molto meglio gli animali che gli esseri umani. Edi. Pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno. Allora, io volevo dire questo, che secondo me gli animali sono un integrativo nella vita, non un sostitutivo all'amore umano. Come gli integratori alimentari? Sì, anche, un alimento per l'anima. E quindi, vabbè, piano Dio, piano... Mi sembra un parolone, onestamente. No, già sull'anima è un concetto che non può essere assoluto, perché c'è chi ci crede, chi non ci crede, nessuno me l'ha fatta mai vedere l'anima. Ma che l'animale alimenti l'anima, non lo so. Boh. Alimenta un modo diverso di stare nel mondo, perché giorno dopo giorno ci si approccia all'animale, alla pianta, oltre agli esseri umani. Sì, ma l'animale non protesta, basta gli dai da mangiare, lo carezza, è tutto contento, non è che ci abbia un suo pensiero individuale con cui noi ci contrapponiamo, non c'è dialettica con l'animale. L'animale è contento se tu lo fai contento. Non sono tanto d'accordo. Come no? L'essere umano è un po' più complesso. È un pensiero. Altro linguaggio, sì, infatti, no, sono belli tutti i linguaggi, con gli umani, con gli animali, e poi io penso che la sofferenza. Che provenga da umani o animali, sì, è sempre sofferenza. Quindi se io sì, la ho capito, evitare... ma io ho mangiato poco fa, era il compleanno di un collega umbro, ha portato la pizza col formaggio con un bel prosciuttino, un salamino, ecco, a leccarsi i baffi. Non è che mi faccio un problema nel maialino che c'è dietro col prosciuttino, questo è il mio modo di vedere, però mi scusi. Lo so, io sì invece da non giudico lei. Nemmeno io apprezzo il suo modo di essere, però sì, va relativizzato un po' questo concetto estremo, se no non devo camminare per paura di pestare i microbi. Gianna. Pronto? Eccomi. Dunque, lei ha parlato, io conosco molto bene i gatti perché fin da bambina li ho adorati e li adoro tuttora. E volevo dirle, lei diceva, ma non è meglio lasciare un gatto maschio che si innamori, che faccia... Ho detto un gatto vita, in amore, è un termine che si usa per convenzione, il gatto in amore quando va errabondo per le strade, miagolando, che sembra una sirena stonata dei pompieri, sì, cercando gatto in calore, si chiama cercando gatto in amore. Gatto in calore. Adesso volevo dirle che questi gatti non è che sono innamorati, cercano... Ma si dice gatto in amore, è un termine convenzionale, in estro, sì, chiami come vuole. È la gatta che va in calore e il maschio s'attizza e la cerca per fecondarla. Sì. E qual è il problema? Però questo che questo avviene in natura per riprodursi, in particolare per cani e gatti. Che poi ma anche per gli esseri umani. Poi noi siamo diventati animali culturali e quindi diamo a questo un valore anche profondo. No, mi lasci dire. Dunque, l'accoppiamento per la femmina è doloroso. Il parto. Ma che ne doloroso. Sa? Lei l'ha vista accoppiare, ha visto che soffriva la gatta? Come fa a sapere? Sì, certo. Cioè, la gatta soffriva, quanto mi fai male? La gatta alla fine lancia un urlo perché il pene del gatto ha come delle scaglie. Cioè, lei l'ha visto con attenzione? No, perché non mi sono mai posto questo problema del pene scaglioso del gatto? Cioè, ha visto il gatto col pene scaglioso che glielo infilava dentro? No, io non l'ho visto. E che ne racconta con l'ho letto. L'ho letto. Difatti la gatta lancia un urlo. Ho visto gatte che si sono arrampicate sull'albero perché sotto c'erano 4 o 5 maschi. Beh, 5 erano troppi, gliene bastava uno probabilmente. No, probabilmente lei ne avrebbe fatto volentieri a meno anche di quello. Voglio dire che... Ah, quindi la gatta in sé ha una sua frigidità che viene violata dall'infame gatto maschio stupratore con il pene lanceolato che quando entra poi non esce più, è come un cavatappi. Vabbè, no, il cavatappi è il maiale, scusate. Michele. Niente, no, sto entrando in particolari scurrili, lo so, ma la signora mi ha portato. No, io veramente stavo proprio ridendo, di gusto veramente, perché è stato bello sentire questo duetto. Veramente. No, niente, io volevo dire che secondo me le categorie sono tre, non gli uomini e gli animali. Cioè ci sono gli uomini, gli animali e i cani, perché i cani sono l'unica categoria di animali che non ti giudicano. Quindi anche se una persona per esempio ha per motivi patologici delle pulsioni violente, il cane lo perdona, lo ama così in modo incondizionato, cioè un amore quasi divino. E quindi per una questione di sensibilità... Il cane, per chi lo mena, se la segna al dito e prima o poi gliela fa pagare. Comunque questi sono luoghi comuni. Mi scrive uno: Nicoletti, non parlare delle tue solite, parla delle tue solite boiate e non parlare degli animali. Vedete, il principio di intangibilità, di sacralità, di intoccabilità dell'animale. A domani.